GR24, il sole 24 ore. L'Iran rincara nel giorno della memoria, il giorno della distruzione di Israele arriverà, il premio Nobel della pace Elie Wiesel alla Camera, Auschwitz non ha guarito il mondo dall'antisemitismo. Tremonti a Telefisco, organizzato dal Sole 24 ore, sì alla riforma fiscale ma senza rattoppi. Scaiola contro la Fiat sulla cassa integrazione, scelta inopportuna dice. Calcio, arriva dal Siena la prima tessera del tifoso, Coppa Italia stasera Milan-Udinese. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci, apriamo il notiziario dedicando una lunga pagina alla giornata della memoria. Pesano come un macigno le parole pronunciate proprio oggi dalla guida suprema dell'Iran Ali Khamenei. Un giorno verrà, detto, in cui le nazioni assisteranno alla distruzione del regime sionista. Ma torniamo in Italia, ci colleghiamo subito con Roma perché alla Camera dei Deputati ha parlato poco fa il premio Nobel Elie Wiesel. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, una vera e propria standing ovation è stata riservata dai deputati al premio Nobel per la pace Elie Wiesel. Nel suo intervento ha invitato a non dimenticare e ad aprire le nostre anime al ricordo per evitare che il passato diventi il futuro dei nostri figli. Wiesel ha poi definito l'Italia un modello perché qui la commemorazione abbraccia tutte le sfere della società. Poi un appello rivolgendosi a Berlusconi presente in aula: voi l'Italia potreste essere i primi a firmare un disegno di legge che definisca l'attentato suicida come un crimine contro l'umanità. Ciò non servirebbe a distruggere tale pratica, ma a condannare i complici. Poco prima l'intervento del presidente della Camera Fini, dobbiamo guardare con preoccupazione all'indifferenza che ancora oggi circonda fenomeni razzisti e xenofobi. È un preciso dovere di tutti, aggiunto, tenere desta la coscienza contro l'ignoranza e il cinismo che rischiano di aprire la strada a nuovi orrori. Il presidente della Camera ha poi ricordato una triste pagina della storia italiana. Sentiamolo. Nel dicembre del 2008, sempre alla unanimità, è stata decisa la posa di una lapide nella sala della regina a ricordo perenne della vergogna delle leggi razziali che nel 1938 vennero approvate per volontà del fascismo proprio qui a Montecitorio, circostanza che è doveroso rammentare, leggi che rappresentano una delle pagine più buie della storia italiana. Una giornata fitta di commemorazioni istituzionali. Questa mattina Napolitano ha presieduto una cerimonia in Quirinale. La Shoah è una tragica esperienza ancora carica di insegnamenti e di valori, ha detto, mentre la giornata della memoria è un monito per non dimenticare, si è rivolto Napolitano soprattutto ai numerosi studenti presenti. Sentiamolo. Sentire le loro parole, sentire come si sono dedicati allo studio di queste tragiche esperienze ancora così cariche di insegnamenti e di valori per le nuove generazioni, sia motivo di conforto per tutti noi. E vorrei dire a Maria Elena: noi non chiediamo di meglio che trasmettervi il testimone a nome dello Stato. Infine Napolitano ha ricordato gli ideali comuni come la lotta per la libertà e il pieno riconoscimento dei diritti dei popoli, in particolare il diritto dello Stato di Israele di vivere in sicurezza. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. E purtroppo non mancano episodi di antisemitismo neanche nella giornata di oggi. In particolare a Roma, sul muro accanto all'ingresso del Museo della Liberazione di Via Tasso, è comparsa la scritta "Olocausto, propaganda sionista" e "27 gennaio, ho perso la memoria". Accanto una croce celtica. Imbrattata anche la targa di marmo posta all'ingresso del museo. Imbrattare con scritte il museo di Via Tasso nel giorno della memoria, nel giorno in cui si ricorda lo sterminio di ebrei, deportati politici e rom, non è un gesto antisemita, nemmeno un gesto di mero razzismo. È un atto grave, un tentativo dichiarato di inneggiare al partito nazista. Nel nostro paese questi atti sarebbero puniti da un reato penale quasi mai applicato dalla nostra giustizia. Ma il fatto è avvenuto a Roma, non è una bravata di ragazzini. Quando questi neonazisti denoantri, che nulla sanno della storia, scrivono che il 27 gennaio si è persa la memoria, tentano invece un'operazione politica che intende cancellare ogni percorso di memoria condivisa. La negazione dell'Olocausto e dell'orrore è il loro unico obiettivo politico. Ma la colpa non è solo loro. La colpa è anche di quel sonno della ragione, della società civile, che troppo spesso, nel corso del tempo, ha generato mostri. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore. E di questi episodi ha parlato da Trieste anche il presidente del Senato, dalla Risiera di San Sabba, Elisabetta Fiorito. Non vi è dubbio che in maniera strisciante subdola cova ancora nel nostro paese qualche atteggiamento di antisemitismo. Così il presidente del Senato Renato Schifani condanna l'episodio delle bustine di zucchero con barzellette antisemite dopo la commemorazione alla Risiera di San Sabba a Trieste nel giorno della memoria. Schifani è giunto in città per deporre una corona di fiori al monumento ai caduti dell'unico campo di concentramento italiano. Con la stella gialla puntata sul petto, il presidente del Senato lancia un monito: la diversità deve essere bandita, dice, l'odio razziale, la xenofobia sono veicolo di pericolosi pregiudizi. Mai più Shoah per gli ebrei, ma anche per coloro che ancora adesso alcuni di noi si ostinano a ritenere diversi. I confini di Israele sono i confini della nostra stessa patria, i confini della nostra civiltà, della nostra storia. Oggi ogni uomo è ebreo, anch'io oggi sono ebreo. E per il momento qui da Trieste è tutto, voi studio. E continueremo a parlare della giornata della memoria anche nel corso dei prossimi GR24 per tutta la giornata. In particolare sarà dedicata a tutto questo tema la puntata di oggi di Italia in Controluce, in onda subito dopo questo GR, dunque alle 13.30 circa. Cambiamo invece ora decisamente argomento, andiamo alla pagina economica. 19esima edizione di Telefisco, organizzata come ogni anno, come ormai sapete se siete dei nostri ascoltatori da qualche tempo, organizzata come ogni anno dal Sole 24 Ore. Era lì per noi Anna Marino. Sì Piera, sì, proprio oggi è il giorno della maratona di 8 ore di aggiornamento confronto con l'Agenzia delle Entrate per commercialisti e operatori d'azienda, 46 le sedi collegate per seguire Telefisco. Oggi in primo piano l'intervento del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che sul fronte fiscale ha sottolineato come sia proprio questo il momento per un cambiamento, anche se la crisi non è alle spalle. Sentiamo. Io credo che è arrivato il momento di cominciare a studiare seriamente una riforma fiscale. E non credo, fatta questa scelta, che la via giusta sia quella dei piccoli rattoppi interni. Con prudenza, con saggezza, prevedendo tempi e metodi di passaggio da un sistema all'altro, ma è inutile stare a fare, a rimettere a posto, a fare il bodybuilding a una specie di ectoplasma che ormai nessuno sa più dov'è e com'è e che cumula elementi di ingiustizia con elementi di inefficienza. La via per una riforma fiscale, ha aggiunto, può essere anche quella di ridurre le aliquote, ma è una cosa non facile. Certo, per Tremonti la lotta all'evasione rimane una priorità e sono da coinvolgere anche i comuni. Ma, ha detto Tremonti, è una minoranza che dichiara redditi sopra i 100.000 euro, mentre la vendita di auto di classe elevata è 4 volte tanto. E un sistema con aliquote così elevate, ha sottolineato il Ministro dell'Economia, è un alibi per non pagare le tasse. Anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, mette l'accento su chi non paga le tasse. La lotta all'evasione è stato l'argomento principe del 2009, i risultati sono sicuramente superiori alle attese, abbiamo già detto che i primi 9 mesi e 11 mesi del 2009 abbiamo abbondantemente superato quanto lo Stato ci aveva segnato come obiettivo, quindi abbiamo superato i 7 miliardi sicuramente di recupero effettivo. Abbiamo partecipato attivamente all'azione per lo scudo fiscale. Il 2010 rimane un anno di lotta all'evasione, di contrasto all'evasione. Stiamo ottenendo dei buoni risultati, ma siamo soltanto all'inizio di un percorso che è lungo e difficile. Nota importante, Tremonti ha confermato che l'IRAP è un'imposta proprio da eliminare, ma toglierla ha un costo eccessivo. Per dare l'idea, ha detto Tremonti, vuol dire togliere la sanità ed è tutto. Grazie ad Anna Marino. La decisione di attuare la cassa integrazione da parte della Fiat non è opportuna, in questo momento rende più difficile questa vertenza. Sono parole del ministro dello sviluppo Claudio Scajola, Sky TG 24. Sentiamolo. Proprio in questi giorni che stiamo affrontando la delicata vicenda di Termini Imerese e quindi il piano complessivo della Fiat in Italia, ecco, questa rapidità di decisione della Fiat di annunciare già da oggi e di avviare a fine mese la cassa integrazione per tutti gli stabilimenti Fiat, ecco, mi pare una decisione non opportuna. Parla invece di ricatto il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni. La Fiat non ha alcuna intenzione di discutere invece la posizione della segretaria confederale CGIL Susanna Camusso. Sentiamola al microfono di Paolo Piacenza. La prima valutazione, che credo che sia assolutamente inevitabile, la modalità con cui la Fiat annuncia questa fermata alla vigilia di un incontro che tutti sappiamo essere molto delicato, che riguarda lo stabilimento di Termini Imerese, ma più in generale il piano industriale della Fiat. Non si capisce, per esempio, perché di fronte a una valutazione di questo tipo la Fiat non abbia scelto di utilizzare quell'occasione per fare una discussione serena su un tema che indubbiamente può esserci, che è quello della riduzione degli ordini, ma che non penso imponesse a nessuno questa modalità di comunicazione. Questo dà davvero la sensazione che la Fiat non abbia nessuna intenzione di discutere della prospettiva, ma che si limiti a continuare ad annunciare e a rivendicare provvedimenti a suo favore senza discutere che cosa succede negli stabilimenti, della produzione, della prospettiva dell'insieme del gruppo. Riforme costituzionali ed elezioni regionali al centro di un incontro a Palazzo Grazioli fra il presidente del Consiglio Berlusconi, coordinatori e capigruppo del centrodestra, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Ufficialmente è un incontro quello convocato dal Premier con i capigruppo della maggioranza, con i vertici del partito, per parlare di riforme, per stilare una sorta di calendario per il 2010, giustizia, scuola, intervento sul fisco, le priorità ripetute più volte da Berlusconi. In realtà oggi non si potrà non parlare della corsa per le regionali, un tema questo che è lontano dal considerarsi chiuso. All'appello mancano ancora alcune candidature, ma a far discutere il centrodestra è soprattutto la decisione di Casini di correre da solo in Puglia e forse in altre regioni. I sondaggi già sul tavolo del Presidente del Consiglio indicano che un candidato dell'UDC andrà ad intaccare il bacino della maggioranza, spianando in alcuni casi la strada all'opposizione. Ipotesi questa che vale ancora di più per la Puglia, dove Berlusconi, secondo fonti ben informate, non sarebbe soddisfatto del candidato ufficiale del PDL, Rocco Palese, caldeggiato dal ministro Fitto. Da qui il possibile ripensamento del Popolo della Libertà. Sarebbero in corso in queste ore dei colloqui con Casini per sondare se sul candidato centrista in Puglia, la Poli Bortone, possa confluire tutta la coalizione di governo. Casini questa mattina lo ha dichiarato ufficialmente: non c'è alcuna preclusione verso questa soluzione, il Popolo della Libertà converga sul nostro candidato, ha spiegato Casini, è l'unico modo questo per sconfiggere Vendola. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Lezione d'eccezione per gli studenti di cinema dell'Università invece di Milano, lo IULM, in cattedra Gabriele Salvatores. Nell'aria si respirano i sogni degli allievi di cinema, decine di ventenni ad ascoltare le parole di un maestro in senso cinematografico e docente per caso, Gabriele Salvatores. Ai ragazzi della IULM ha spiegato come ha costruito la famiglia del cinema Salvatores, tra schermo, vita vera e amicizia, fino a raccontare l'Oscar insieme al compagno d'avventure Diego Abatantuono. Stallone dice, winner is Hillary. Io non capisco assolutamente Hillary. Ai ragazzi ha cercato di aprire un mondo fatto di inquadrature, di scelte di luci, di colori, ma tutto sta in qualcosa di molto semplice, come quello che faceva ridere gli abitanti di un paesino marocchino in cui giravano Marrakesh Express, un pollo sullo sfondo che lui non aveva nemmeno notato. Il nostro sguardo è interrotto sempre di più, case, macchine, troppa roba davanti. Io credo che il cinema un pochino dovrebbe cercare di far vedere quel pollo. La lezione di Gabriele Salvatores verrà trasmessa venerdì sera alle 21 su Sky Cinema 1. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Circa 160.000 taglieggiati, 200.000 vittime dell'usura, i numeri dell'aggressione delle mafie ai commercianti sono un vero e proprio bollettino di guerra, lo ha detto il presidente di Confesercenti Marco Venturi. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della nuova provocazione dell'Iran proprio nel giorno della memoria. La distruzione di Israele arriverà, ha detto Ali Khamenei. Intanto in Italia le celebrazioni appunto del giorno della memoria, il premio Nobel della pace Elie Wiesel dice Auschwitz non ha guarito il mondo dall'antisemitismo. Qui a Milano invece la 19ª edizione di Telefisco, organizzata da Sole 24 Ore, interviene anche Tremonti che dice sì alla riforma fiscale ma senza rattoppi. E poi la vicenda Fiat, abbiamo parlato di Fiat perché Scajola oggi in TV ha detto sulla cassa integrazione che è una scelta inopportuna. La mafia è una società che non conosce crisi, lo rivela il 12° rapporto SOS Impresa, secondo il quale il fatturato ha raggiunto 135 miliardi di euro. Per Confesercenti, con i 24 miliardi del giro di usura si potrebbero inoltre realizzare almeno 200.000 posti di lavoro. Il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, parla di un vero bollettino di guerra. Sentiamolo al microfono di Maria Chiara Grandis. Il racket è diffuso ormai nelle zone e nelle regioni a rischio. Non dico che pagano tutti, ma insomma una buona parte degli imprenditori pagano il pizzo. Per quello che riguarda l'usura, è chiaro che si collega con la crisi dell'economia e quindi ci si rivolge di più agli usurai quando non si ha accesso al credito, quindi al finanziamento attraverso il sistema bancario. E noi riteniamo che la risposta vera debba essere data dal sistema bancario, deve essere dato anche attraverso le controgaranzie dei nostri consorzi fidi che mettiamo in campo, e quindi evitare di consegnare i piccoli imprenditori nelle mani della criminalità. Intanto nuovo attacco ai beni della mafia, nuovi particolari sul super sequestro a Palermo. Abbiamo fermato una spettacolare macchina di consenso mafioso, è la definizione data da Roberto Scarpinato, capo del Dipartimento Mafia e Economia della Procura di Palermo, all'operazione che ha portato al sequestro di un patrimonio di oltre 550 milioni all'imprenditore agrigentino Rosario Cascio, già arrestato nel 2008. Un patrimonio costituito da una ventina di società nel settore del calcestruzzo e del movimento terra, e poi terreni, immobili e anche un'imbarcazione da diporto. Una delle operazioni più importanti degli ultimi anni, come ha spiegato il direttore della DIA, il generale Antonio Girone. Il provvedimento, ha detto il procuratore aggiunto di Palermo Scarpinato, ha colpito uno degli uomini più importanti di Cosa Nostra nella Sicilia occidentale. Cascio è stato un pezzo importante del tavolino mafioso costituito da Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, oggi pentito, e aveva tentato di ricostituire un altro tavolino imponendo i prezzi delle forniture e tangenti del 3% sui lavori. Non solo, Cascio, secondo i magistrati, era il collegamento tra l'imprenditoria e i colletti bianchi locali e Matteo Messina Denaro. A lui si rivolgevano anche i capi mandamento di Agrigento per ottenere il via libera su certi affari dal potente Matteo Messina Denaro, oggi latitante. Nino Amadore, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Andiamo all'estero. Sarath Fonseca, l'avversario del presidente uscente e rieletto nello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, ha chiesto oggi la protezione di un paese vicino che possa garantirgli la sicurezza. Questa mattina fonti giornalistiche avevano reso noto che il Ministero della Difesa dello Sri Lanka avrebbe disposto l'arresto di Fonseca per impedirne la fuga dopo la pubblicazione dei risultati elettorali che danno vincente Rajapaksa. Andiamo invece a Parigi. ST Microelectronics, la quinta società di semiconduttori al mondo che vanta due importanti basi operative in Italia, da Grate Brianza e a Catania, ha annunciato oggi a Parigi i risultati finanziari per il quarto trimestre dell'intero anno 2009. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Parigi, Sergio Nava. Buongiorno da Parigi. È stato un anno in perdita quello appena trascorso per il colosso dei semiconduttori europeo ST Microelectronics, anche se i risultati del quarto trimestre 2009 lasciano comunque sperare in una ripresa del mercato. STM ha chiuso l'esercizio annuale con una perdita netta di 1.131 milioni di dollari, un terzo in più rispetto al passivo 2008, in calo pure i ricavi netti, anche se, afferma la multinazionale, nell'ultimo trimestre hanno ripreso a salire, per la precisione del 13,6%, al di sopra quindi del margine previsto. Poco fa abbiamo intervistato Carlo Bozzotti, presidente di ST, sentiamo cosa ci ha detto. È stato un anno difficile, naturalmente dal punto di vista dei numeri la perdita è molto importante, purtroppo. È stato un anno difficile anche soprattutto per le nostre produzioni. Abbiamo veramente dovuto tagliare nel primo e nel secondo trimestre le nostre produzioni. È stato un anno però che chiudiamo con una nota positiva, e la nota positiva è che siamo tornati a un profitto operativo. Abbiamo fatto infatti 90 milioni di dollari di profitto operativo. La crescita è stata consistente, anche al di là un pochino delle aspettative. Avevamo dato una forchetta al 5,12, abbiamo fatto quasi 14 di crescita sequenziale, ma anche di crescita anno su anno. Bozzotti è colpato della situazione, tra i vari fattori anche il trend euro-dollaro, definito penalizzante, ma ha affermato di essere molto incoraggiato da quanto realizzato nel 2009 in vista della decisione sul dividendo che verrà proposto agli azionisti dal consiglio di amministrazione in primavera. Lanciando uno sguardo al 2010, il presidente di ST ha detto di attendersi un ritorno ai livelli dei ricavi pre-crisi, confidando in una crescita superiore a quella del 10-12% attesa nel mercato di riferimento. Grazie. In borsa il titolo ha risposto abbastanza negativamente, risultati di bilancio con vendite che hanno portato a perdite vicine al punto percentuale. È tutto. Grazie, grazie a Sergio Nava da Parigi. E proprio in Francia, come sapete, è in arrivo il divieto del velo integrale islamico. Lo vietereste anche in Italia? Era il nostro sondaggio di oggi. Sentiamo come avete risposto. Il veto che la Francia si appresta a mettere al velo integrale islamico piace ai nostri ascoltatori, secondo i quali, era questa la domanda del sondaggio di oggi, dovrebbe essere importato anche in Italia. Il ministro Carfagna conferma: ci vorrebbe il divieto anche da noi. Chi si batte da sempre contro tradizioni come il niqab o il burqa afghano è Daniela Santanchè, che si lancia in un paragone forse azzardato. Vorrei ricordare che il velo è un segno di appartenenza, che il velo era un po' come è stata la stella gialla per gli ebrei, è qualcosa che fa capire la differenza delle donne e loro, della padronanza di questi uomini nei confronti delle donne. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La Apple corre a New York a poche ore dall'evento di San Francisco, durante il quale Cupertino presenterà il suo nuovo attesissimo prodotto. In una giornata in rosso per Wall Street, Apple in controtendenza avanza dell'1,7%, spinta da una trimestrale oltre le attese. Che si tratti dell'atteso tablet non ci sono più dubbi, tanto che Steve Jobs ha detto nelle ultime ore che il piccolo computer con schermo da 10 pollici touchscreen è il prodotto più importante al quale ha lavorato. Sarà insomma una sorta di iPhone più grande e con il telefono della Apple dovrebbe condividere il sistema operativo e quindi le migliaia di applicazioni che si possono installare. Lo schermo da 20 cm dovrebbe però favorire la lettura e per questo l'azienda californiana sta trattando con editori di libri e di giornali per offrire pacchetti tutto compreso da vendere attraverso il negozio iTunes. In attesa di vedere questa sera alle 19 o conoscere le altre caratteristiche, in Gran Bretagna si accettano scommesse sul nome. Il più accreditato è iPad, con la A al posto della O di iPod. Si punta anche su iSlate o iTablet. Infine c'è chi fa ipotesi anche sul prezzo e azzarda la cifra di $1,000. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio. Oggi il Milan torna in campo per i quarti di Coppa Italia, affronta questa sera l'Udinese a San Siro, domani il big match di questo turno della Coppa Nazionale. A Milano l'Inter se la vedrà con una Juve alle prese con la ricerca di sostituto dell'allenatore Ferrara. Resiste la pista Zaccheroni, ma oggi a Torino è giunto l'ex bianconero Claudio Gentile, altro candidato al possibile ruolo di traghettatore dei bianconeri, in attesa di un accordo con il tecnico spagnolo Rafa Benitez. Sul fronte del fair play, della sicurezza negli stadi, arriva però anche una notizia di segno diverso. Oggi il Siena ha presentato la prima tessera del tifoso. Non è la prima in assoluto, ma ad oggi è l'unica in linea con le indicazioni del Ministero dell'Interno, obbligatorie dalla prossima stagione. È la tessera del tifoso presentata oggi dal Siena Calcio e dalla Questura di Siena. Andrà a regime da settembre, ma già dai prossimi giorni sarà distribuita agli abbonati della squadra bianconera, consentendo loro di velocizzare l'ingresso allo stadio. Ogni carta alloggia un microchip per conservare le generalità del possessore, ma è già predisposta per contenere anche i suoi dati audiometrici. Non sarà uno strumento di polizia per schedare le tifoserie, precisano i promotori, piuttosto uno strumento di marketing. Valentina Mezzaroma, vicepresidente del Siena Calcio. Un'operazione civile, di legalità, di fidelizzazione del tifoso. Tra i benefits ci sarà la garanzia di seguire la squadra in trasferta anche in caso di restrizioni di ordine pubblico. Del resto, su ogni richiedente la pubblica sicurezza potrà porre il veto in caso di DASPO o precedenti analoghi. Lo precisa Massimo Bontempi, questore uscente di Siena, prossimo all'ingresso nell'osservatorio di sicurezza sullo sport. La questura si limiterà nel rispetto assoluto della privacy della persona a dire alla società un sì o un no senza spiegazioni. Tradizionalmente corretta, la tifoseria senese pare fare buon viso alla nuova tessera, anche se cambierebbe volentieri questo primato con l'attuale ultimo posto in Serie A della squadra, ma questa è un'altra storia. Massimo Sollassini, GR24, Il Sole 24 Ore, Siena. Io vi lascio alle borse, poi Italia in controluce, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.